Ecco, qui una scelta non è soltanto una scelta fra austerità e crescita, ma io veramente penso che sia un momento di definire il confine fra lo sviluppo e il declino. Soltanto l'austerità può portare solo al declino. L'industria ha bisogno di sostegno in questo momento e non solo l'industria tradizionale, ma settori nuovi, tutti i settori che orbitano intorno a quel vecchio concetto, e qui non scherzo quando dico vecchio concetto di new economy, perché in realtà il processo di informatizzazione, la necessità di avere infrastrutture a banda larga in grado di far crescere nuove forme di impresa, ecco, sono tutti settori che hanno bisogno di essere accompagnati in questa fase di strutturazione, in questa fase estremamente difficile dell'economia. Non si può pensare soltanto che con i tagli si rimettano in piedi la salute dei governi, la salute degli stati, e tant'è vero quello che stiamo pagando oggi in sede di mercati, e l'euro riflette questo. L'euro non riflette le tensioni soltanto all'interno dell'Eurogruppo, all'interno dell'Europa. Le difficoltà in cui si muovono i mercati finanziari e i mercati valutari sono lo specchio della mancanza di prospettive di crescita, non soltanto nelle economie tradizionalmente forti, ma anche in quelle più strutturalmente deboli, come ad esempio la nostra. I mercati vogliono sapere come crescerà l'Europa, se sarà una crescita armonica e soprattutto se sarà in grado di recuperare i due gravi danni che sono stati provocati sull'Europa dalla crisi finanziaria del 2007 e del 2008. Soltanto in quei 2 o 3 anni abbiamo fatto un passo indietro di 20 anni nel ripianamento dei deficit pubblici. Si sono aggiunti 7 milioni di disoccupati alle già lunghe liste di disoccupazione. Il Fondo Monetario, le grandi organizzazioni che studiano le prospettive macroeconomiche ci hanno detto finora che c'è la prospettiva di una ripresa senza occupazione. Ecco, non sarà mai una ripresa senza occupazione. Senza occupazione non c'è sviluppo sociale, anzi ci possono essere soltanto delle tensioni che rischiano poi di sfociare in fenomeni più gravi.